Friuli nel mondo, 261esima trasmissione dedicata agli emigrati. A Moggio Udinese c'è sempre stato, a memoria d'uomo, un gruppo di appassionati che curava sia il canto liturgico che quello folcloristico. In questi ultimi anni, però, era andato un po' scemando l'interesse per il canto corale, tanto che la cantoria si era ridotta ad uno sparuto gruppo di anziani. Ci volevano l'entusiasmo e la provata capacità, anche in fatto di musica, del nuovo parroco abate, il giovane e dinamico Monsignor Adriano Caneva, già conosciuto del resto per i concerti che aveva in precedenza ivi tenuto con i cori della Fari e del CAI di Tolmezzo, a far rinascere una certa voglia di rinnovare le tradizioni locali. Ed i primi segni dell'auspicata ripresa appaiono chiari nel 1971, mentre nel 1972, superate talune immancabili difficoltà e con l'inserimento di un forte gruppo di giovani, aveva inizio la vera attività del coro attuale, che, dopo il primo applauditissimo concerto nel luglio 1973, continua a mietere successi e allori anche fuori della graziosa Moggio, adagiata con la sua antica abbazia all'imboccatura del Canal del Ferro. E le affermazioni non mancano anche nelle pubbliche competizioni. È appannaggio, infatti, della corale moggese la targa d'oro alla sagra della Villotta Friulana di Feletto Umberto nell'estate del 1974. Di questo sorprendente complesso corale ascolterete ora, cari amici emigrati, alcuni canti, cominciando da questa composizione moderna di Michelutti e Feruglio, Soreli o Lune. Oh, dall'Alta Valdegano è arrivato a noi il breve ma caratteristico canto di autore ignoto, armonizzato da Adriano Caneva, Da Pe de Clevo. Ed ora eccovi un ricamo di note che Arturo Zardini ci ha lasciato con C'è Matine. Alle vicine a C'è Matine, così serene e così buone, la lune plena, forse verdure, e che starete a bene. Chi non conosce la sbarazzina, vivace composizione sempre di Arturo Zardini è indubbiamente ricavata da rimembranze di nostri emigrati lavoratori in Stiria, la Staiare. Mai concludiamo, cari emigrati, anche se l'estate si fa oggi veramente sentire, con l'originale scherzo musicale di Argante e Piani, Il Fred. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.